Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Di domenica, non appena mia madre uscì per andare in chiesa, chiamai Phil il valletto. Lo obbligai a tirar fuori il mio completo migliore. L'indossai, scoprendo che nel corso della mia malattia ero tanto cresciuto che il vecchio vestito mi stava terribilmente piccolo. Corsi a Castle Brady, ben deciso a rivedere la mia bella. L'aria era così fresca e luminosa, e gli uccelli cantavano così chiaramente tra il verde degli alberi, che mi sentivo sollevato come non mi capitava da molti mesi, e correvo giù per il viale, in cui, per inciso, mio zio aveva fatto abbattere tutti gli alberi fino all'ultimo stecco, scattante, come un giovane cerbiatto. Il mio cuore iniziò a battere forte mentre salivo i gradini della terrazza, tra cui spuntava l'erba, ed entravo attraverso la porta sgangherata della sala. «Il signore e la signora erano in chiesa», disse il maggiordomo Mr. Screw, che a vedere il mio aspetto alterato e la mia figura magra e sparuta aveva fatto un salto. Anche sei delle signorine erano fuori. «Miss Nora era dei loro?» domandai. «No, Miss Nora non era dei loro», disse Mr. Screw, con uno sguardo stupito ma stranamente sagace. «E dov'è?» A questa domanda rispose, o meglio finse di rispondere, con la solita destrezza irlandese, lasciando a me di decidere se Nora fosse andata a cavallo dietro a suo fratello o a fare una passeggiata con sua sorella, o se invece fosse rimasta in camera sua ammalata. E mentre affrontavo questo problemino, Mr. Screw, di botto, se ne andò. Mi precipitai nel cortile interno, dove si trovavano le stalle di Castle Brady, e là trovai un dragone che fischiettava Roast Beef of Old England, e intanto strigliava un cavallo del reggimento. «Di chi è quel cavallo? Camerata!» gridai. «Camerata, come no!» rispose l'inglese. «Il cavallo è del mio capitano, e lui è un camerata migliore di te, puoi giurarci!» Non persi tempo a spezzargli le ossa, come avrei fatto in un'altra occasione, perché un orribile sospetto mi aveva attraversato la mente. Corsi in giardino più veloce che potevo. Non so come, sapevo già quello che avrei visto. Vidi il capitano Quinn e Nora passeggiare insieme lungo il viale. Il braccio di lei era infilato sotto quello di lui e quel mascalzone carezzava e premeva la mano comodamente raccolta contro l'odioso panciotto. Qualche passo dietro di loro c'era il capitano Fagan, del reggimento di Kilwongan. Faceva la corte a Misi, la sorella di Nora. Io non temo né gli uomini né i fantasmi, ma a quella vista le ginocchia presero a tremarmi violentemente ed un tratto mi sentii tanto male che dovetti abbandonarmi sull'erba accanto all'albero contro cui mi ero appoggiato, perdendo quasi del tutto i sensi per un paio di minuti. Poi mi tirai in piedi di nuovo e, avanzando verso la coppia che stava camminando, liberai il gancio che assicurava al fodero il mio spadino dal manico d'argento, perché avevo deciso di metterlo in corpo ai due colpevoli e infilzarli come piccioni. Non dico quali sentimenti oltre alla rabbia mi passassero allora per la mente. Che amara, vuota delusione, che folle, selvaggia disperazione, che sensazione che il mondo intero crollasse via, rotolandomi sotto i piedi. Non ho dubbi che il mio lettore sia stato buggerato dalle gentili signore più di una volta e lo invito a ricordare ciò che lui stesso provò al primo impatto. «No, Norelia!» diceva il capitano. A quell'epoca era di moda tra gli innamorati chiamarsi l'un l'altro con i nomi più romantici e romanzeschi. «Tranne che per te e quattro altre, giuro davanti a tutti gli dèi che il mio cuore non ha mai sentito la dolce fiamma». «Oh, voi uomini, Eugenio!» disse lei, mentre quell'animale si chiamava John. «La vostra passione non è pari alla nostra, noi siamo come una pianta di cui ho letto qualcosa, portiamo un solo fiore e poi moriamo». «Vuoi dire che non ha mai provato simpatia per nessun altro?» disse il capitano Quinn. «Mai, Eugenio, se non per te, come puoi fare una tale domanda a una pudica ninfa?» «Adorabile Norelia», disse lui, portando alle labbra la mano di Nora. Io avevo un fascio di nastri rosso ciliegia che lei mi aveva dato togliendoselo dal seno e che portavo sempre con me. Lo trassi dal petto e lo gettai in faccia al capitano Quinn. Poi gli corsi addosso con lo spadino sguainato gridando: «È una bugiarda! È una bugiarda, capitano Quinn! Mano alla spada, signore, e difendetevi se siete un uomo!» E con queste parole mi buttai su quel mostro prendendolo per il collo, mentre l'aria risuonava delle grida di Nora. A questo suono l'altro capitano e Misi si affrettarono verso di noi. Anche se durante la malattia ero cresciuto come la gramigna, raggiungendo quasi la mia piena statura di 6 piedi, ero pur sempre uno stecchino accanto all'enorme capitano inglese, che aveva polpacci e spalle come non ce li ha nemmeno un infermiere addetto alle carrozzelle. Arrossii violentemente. Poi, quando l'attaccai, impallidì di colpo, fece un passo indietro e impugnò la spada. Ma allora Nora, sconvolta dal terrore, l'abbracciò gridando: «Eugenio! Capitano Quinn, per l'amor del cielo, risparmiate il bambino, non è che un lattante!» «E meriterebbe di venire frustato per la sua impudenza!» disse il capitano. «Ma niente paura, Miss Brady, non lo toccherò. Il vostro favorito non ha nulla da temere da me!» E così dicendo si piegò e raccolse il fascio di nastri caduto ai piedi di Nora e disse con tono sarcastico: «Quando le gentildonne fanno regali a certi gentiluomini, è tempo che gli altri gentiluomini si ritirino!» «Santo cielo, Quinn!» gridò la ragazza. «È appena un ragazzo!» «Sono un uomo!» ringhiai io. «E lo proverò!» «E per me non conta più del mio cagnolino o del mio pappagallo. Non sono libera di dare un pezzetto di nastro a mio cugino?» «Liberissima, signorina!» continuò il capitano. «Metri su metri, se volete!» «Mostro!» esclamò quella cara ragazza. «Vostro padre faceva il sarto e anche voi pensate solo al negozio! Ma avrò la mia vendetta, l'avrò! Reddy, mi lascerai insultare così?» «Al contrario, Miss Nora!» dissi io. «Intendo avere il suo sangue, quant'è vero che il mio nome è Redmond!» «Chiamerò l'istitutore perché venga a punirti a colpi di sferza, ragazzino!» disse il capitano, riprendendo il controllo di sé. «Ma quanto a voi, signorina, ho l'onore di augurarvi buona giornata!» Si scappellò con fare cerimonioso, fece un profondo inchino e stava proprio per andarsene quando arrivò mio cugino Mick. Il grido era giunto anche alle sue orecchie. «Per la miseria, Jack Quinn, che sta succedendo?» dice Mick. «Nora in lacrime. Lo spettro di Redmond ricomparso con la spada sguinata e voi che fate un inchino?» «Ve lo dico io che cosa succede, Mr. Brady», risponde l'inglese. «Ne ho abbastanza della qui presente Miss Nora e di tutti i vostri modi irlandesi. Non ci sono abituato, signore.» Va bene, ma che cosa c'è di grave?» disse Mick con buona grazia. Il fatto era che doveva a Quinn una grossissima somma. «Vi abitueremo ai nostri modi, oppure adotteremo noi quelli degli inglesi. Non è un'usanza inglese che una signora abbia 2 innamorati. Perciò, Mr. Brady, vi sarò grato se vorrete pagarmi la somma che mi dovete, e declino ogni pretesa su questa signorina. Se le vanno gli scolaretti, se li prenda, signore.» «Su, su, Quinn, voi state scherzando», disse Mick. «Non sono mai stato più serio», rispose l'altro. «Allora, per Dio, state in guardia», urlò Mick. «Infame seduttore, traditore infernale, vieni qui a tessere le tue trame attorno a questo angelo sofferente, conquisti il suo cuore, l'abbandoni e ti illudi che suo fratello non la difenderà. Mano la spada e subito, vile schiavo, e lascia che ti strappi dal corpo quel tuo cuore infame.» «Questo è un assassino in piena regola», disse Quinn, balzando indietro. «Vanno in 2 insieme contro 1 solo. Fagan! Non mi lascerete uccidere!» «In fede mia», disse il capitano Fagan, che sembrava divertirsi un mondo, «potete sistemare da solo le vostre divergenze, capitano Quinn.» E avvicinatosi a me, sussurrò: «Tagli addosso di nuovo, piccolo!» Se davvero Mr. Quinn rinuncia alle sue pretese, dissi, io naturalmente non intendo interferire. Rinuncio, signore, rinuncio, disse Mr. Quinn, sempre più nervoso e confuso. E allora difenditi da uomo, maledetto, gridò di nuovo Mick. Misi, porta via questa povera vittima. Redmond e Fagan faranno rispettare le regole del duello. Un momento. Io non... Datemi tempo. Sono sconcertato. Io non so da che parte voltarmi, disse il capitano Quinn. Come l'asino tra le due balle di fieno, disse asciutto Mr. Fagan, con buoni bocconi da tutte e due le parti. Durante questa lite, mia cugina Nora fece l'unica cosa che una signora possa fare in tali circostanze. Svenne in debita forma. In quel momento ero nel pieno di una violenta discussione con Mick. Naturalmente sarei corso lo stesso ad aiutarla, ma il capitano Fagan, un bel tipo questo Fagan, con il suo humor asciutto, mi fermò dicendo: «Vi consiglio di lasciar stare la signorina, Master Redmond. State pur certo che tornerà in sé». E poco dopo così avvenne, il che mi ha poi fatto capire che Fagan conosceva il mondo molto bene. Sono parecchie le signore che nel corso degli anni ho visto rinvenire in modo simile. Quinn non si sognò nemmeno di aiutarla. È chiaro, anzi, che approfittando del diversivo causato dalle sue grida, quel bullo, traditore com'era, sgattaiolò via. «Con chi di noi deve battersi il capitano Quinn?» dissi a Mick. Era la mia prima questione d'onore, e ne ero fiero, come di un abito di velluto berlettato. «Sarete voi o io, cugino Mick, ad avere l'onore di punire questo insolente inglese?» E mentre dicevo queste parole, gli tesi la mano. In quel momento trionfale, il mio cuore era tutto con mio cugino. Ma lui respinse la mia offerta di amicizia. «Tu, proprio tu!» disse trascinato dalla foga. «Va a farti impiccare, ficcanaso di un ragazzino, invece di impicciarti degli affari di tutti gli altri. Già, erano affari tuoi venire a far scenate e piazzate qui con un gentiluomo da 1500 sterline l'anno!» «Oh, ansimò Nora dal sedile di pietra, sto per morire, so che morirò, non mi rialzerò più da questo luogo!» «Il capitano non se n'è ancora andato», bisbigliò Fagan, al che Nora gli lanciò uno sguardo indignato, saltò in piedi e si diresse in fretta verso casa. «Torniamo a noi», proseguì Mick. «Spettava a te, canaglia impiccione, di avere a che fare con una ragazza di questa casa? Canaglia sarai tu!» urla io. «Insultami di nuovo così, Mick Brady, e ti pianterò il mio spadino nella strozza! Ricordati che ti ho tenuto testa quando avevo 11 anni. Ora sono un tuo pari, e per Giove, se mi provochi, te li darò come ha sempre fatto il tuo fratello minore!» Oh, questo colpo andò a segno. Vidi Mick diventare blu dalla rabbia. «Ecco un bel modo di entrare nelle grazie della famiglia», disse Fagan in tono suadente. «La ragazza è grande abbastanza da essere tua madre», ringhiò Mick. «Grande o piccola», risposi. «Ascoltami bene, Mick Brady», e infilai una terribile bestemmia che non occorre ripetere qui. «L'uomo che vuole sposare Nora Brady dovrà prima uccidermi. Hai nulla in contrario?» «Beh», disse Mick avviandosi, «uccidervi, signor mio. Frustarvi, volete dire. Manderò Nick il guardiacaccia perché se ne occupi». E così dicendo, se ne andò. A questo punto il capitano Fagan si avvicinò e, prendendomi gentilmente per mano, disse che ero un ragazzo di valore e che gli piaceva il mio spirito. «Ma ciò che dice Brady è vero», continuò. «È difficile dare consigli a un ragazzo fuori di sé, come sei tu adesso, ma credimi, io conosco il mondo, e se fai come dico, non ti pentirai di avermi ascoltato. Nora Brady non ha un soldo, e tu non ne hai uno in più di lei. Tu hai 15 anni e lei 24. Tra 10 anni, quando tu avrai l'età per sposarti, lei sarà una vecchia. E poi, ragazzo mio, non vedi, anche se per te è difficile vederlo, è una civetta, e non gliene importa nulla, né di te, né di Quinn!» «Ma chi mai, quando è innamorato, dà retta ai consigli? Io non l'ho mai fatto, e al capitano Fagan dissi chiaramente che Nora poteva amarmi o no, come preferiva, ma Quinn doveva comunque battersi con me prima di sposarla. Questo lo giuravo. Diamine, disse Fagan, credo che tu sia un ragazzo capace di mantenere la parola. E dopo avermi guardato fisso negli occhi per qualche secondo, se ne andò anche lui fischiettando con una canzoncina. Lo vidi ancora voltarsi verso di me mentre attraversava il vecchio cancello del giardino. E quando se ne fu andato e mi ritrovai tutto solo, mi gettai sulla panchina dove Nora aveva finto di svenire. Aveva dimenticato lì il suo fazzoletto. Lo raccolsi e ci nascosi la faccia, scoppiando in un fiume di lacrime. Per tutto l'oro del mondo non avrei mai voluto che qualcuno mi vedesse in quello stato. I nastri spiegazzati che avevo gettato addosso a Quinn stavano per terra sul viale e io me ne rimasi seduto lì per ore e ore. Credo di essere stato in quel momento l'uomo più disperato di tutta Irlanda. Ma il nostro è un mondo mutevole. Quando consideriamo quanto grandi ci sembrano le nostre pene e quanto piccole sono, e come siamo convinti che da un momento all'altro moriremo di dolore, e quanto in fretta poi dimentichiamo tutto, dovremmo proprio vergognarci di noi stessi e della nostra leggerezza. Dopotutto, il tempo ha forse il dovere di consolarci. Nel corso delle mie molteplici avventure ed esperienze, non credo di avere mai incontrato la donna giusta. Ho dimenticato in breve tempo ogni singola creatura che avevo adorato. Eppure, sono convinto che, se mi fossi imbattuto in quella buona, l'avrei amata per sempre. Devo essere rimasto a spasimare sulla panchina per qualche ora, perché ero arrivato a Castelbredy di mattina e uscii dalla mia reverie soltanto al suono della campana del pranzo, alle 3, come sempre. Per prima cosa raccolsi il fazzoletto e mi ripresi i nastri. Mentre attraversavo i locali di servizio, notai la sella del capitano ancora appesa alla porta della stalla e vidi quel bruto odioso del suo servo pavoneggiarsi in giubba rossa davanti alle sguattere e alla gente di cucina. «L'inglese è ancora qui, Master Redmond», mi disse una delle domestiche, «una ragazza sentimentale con gli occhi neri posta al servizio delle signorine. È in sala da pranzo in compagnia di un tenerissimo filetto di vitello. Andate e non fatevi metter sotto, Master Redmond». E io entrai e sedetti come sempre al mio posto, in fondo alla grande tavola. Il maggiordomo, mio amico, mi portò subito un coperto. «Eccoti, Reddy, ragazzo mio», disse mio zio. «Di nuovo in piedi? Ottimo!» «Farebbe meglio a starsene a casa con sua madre», brontolò mia zia. «Non darle retta», dice lo zio Brady. «È che ancora sullo stomaco l'oca fredda servita per colazione. Prendi un bicchiere di vino, Mrs. Brady, e bevi alla salute di Redmond». Era chiaro che non sapeva nulla dell'accaduto, ma Mick, anche lui a pranzo con noi, e Ulick e quasi tutte le ragazze erano d'umor nero, mentre il capitano aveva un'aria da stupido e Miss Nora, di nuovo al suo fianco, sembrava pronta a scoppiare in lacrime. Il capitano Fagan sedeva con un sorriso sulla faccia e io guardavo dritto davanti a me, freddo come una pietra. Durante il pranzo mi pareva di soffocare, ma ero deciso a far buon viso a cattivo gioco. Quando venne tolta la tovaglia, riempì il mio bicchiere come tutti gli altri e bevemmo al re e alla chiesa, da gentiluomini. Mio zio, di ottimo umore, si dedicava soprattutto a prendere in giro Nora e il capitano. Per esempio, «Nora, dividi quell'osso di pollo con il capitano, scopri chi si sposerà prima!» Oppure, «Jack Quinn, mio caro ragazzo, non stare a chiedere un bicchiere pulito per il chiaretto qui a Castelbredy. Siamo a corto di cristalleria. Prendi quello di Nora e vedrai che il vino non ti sembrerà cattivo». E così via. Era raggiante e non sapevo proprio perché. Che ci fosse stata una riconciliazione tra quella traditrice e il suo innamorato dopo il mio rientro a casa? Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray,